Ti fa più paura la violenza o la solitudine? Dipende. Sono due insiemoni giganti, quindi boh, dipende. Dipende dal tipo di violenza, dipende dal tipo di solitudine. Associa un oggetto alla parola violenza. Un vaso da fiori? Sei mai stato violento? Sì, ho sicuramente avuto episodi violenti e reazioni violente, sì. Anche sentimenti violenti, sì. Contro chi o contro cosa? Varie. Dipende. Un interlocutore, un oggetto, me stesso, cioè. In che modo te lo ricordi? Non mi viene un esempio in particolare, cioè sì, magari posso aver provato rabbia per qualcosa e aver reagito violentemente, poi magari, non so, aver usato parole che non volevo usare e aver avuto una reazione che può essere intesa violenta anche proprio fisicamente, non so, un gesto o qualcosa. C'è differenza tra uomini e donne? Sì. Ti senti uomo, donna o un po' entrambi? Associa un aggettivo alla parola uomo e uno alla parola donna. C'è come chiedermi la capitale del Camerun adesso e boh, adesso si bastone e acqua. Pensi sia possibile che tu un giorno ti scopri o diventi esattamente il contrario di uomo o donna? Ti Cioè, in che senso? senti più uomo o più donna? Quindi è possibile che un giorno tu ti scopra di essere donna? Ah, boh, sì, in questo senso, diciamo, anche alla mia compagna mi ha sempre detto che sono una lesbica nel corpo di un uomo, quindi. E ti spaventa? No. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Dipende, dall'eccitazione a so, intimità. Se fosse un corpo di donna o se fosse un corpo di uomo, sarebbe la stessa cosa? Cioè, sicuramente quello di donna mi piace di più. Quello di uomo non aprire anche in spogliatoio con dopo allenamento non mi fa né caldo né freddo in questo senso. Cosa o chi ti fa arrabbiare? Ah, mi arrabbio spesso quando non riesco a spiegarmi, quando non mi sento capito magari. Associa una sensazione alla parola rabbia, una sensazione. Ah, sì, a questo punto sì, quello di non essere capito. E cosa fai quando sei arrabbiato? Boh, mi annebbio un po'. Hai mai paura? Di Sì. che cosa? Magari di perdere quello che ho o di. Sì, fondamentalmente quello. E cosa fai quando hai paura? E Ma nebbio. quando sei felice, cosa fai? Ah, dipende, cioè, se è una felicità. Cioè, non manifesto esternamente spesso, magari, però sì, dipende, cioè, è proprio uno stato, è uno stato d'animo. Non so dire qualcosa di specifico che faccio. Hai mai subito violenze o soprusi? Sì, in qualche forma, sì. Niente di eclatante, niente da scriverci un libro, come dire. Qual è il primo episodio che ti viene in mente, se te ne viene in mente uno? Primo episodio. Boh, sì, forse qualche episodio con mio padre. Con una o poche parole, qual è secondo te il confine della persona? Se dovessi identificarlo con una parola. Confine, oddio, inteso in senso fisico è il corpo, se in altri sensi dipende un po' dalla sensibilità della persona, magari. Cosa ti fa sentire protetto e sicuro? Boh, il fatto di essere in sintonia magari con un'altra persona. E quando senti necessario un abbraccio. Boh, quello spesso, in generale. Grazie.